Do il benvenuto a Domenico Staiti, docente di etnomusicologia dell'Unibo. Buongiorno Domenico e benvenuto appunto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno. All'Università di Bologna verrà consegnata una laurea ad honorem molto particolare, la prima volta che viene conferita a un musicista di tradizione orale che si chiama Luigi Lai, virtuoso delle launeddas. Ti chiedo, Domenico, di parlarci innanzitutto di questo strumento così particolare che viene appunto dalla tradizione sarda, launeddas. Sì, le launeddas sono un triplo clarinetto di canna di imboccatura diretta, suonato con la respirazione circolare. Si tratta di tre canne fatte proprio di canna di Arundo Donax con un'ancia semplice. Una fa da bordone, le altre due hanno 4 fori digitali ciascuna. La combinazione delle posizioni di diteggiatura, il rapporto fra le canne dotate di fori di diteggiatura col bordone, consente di eseguire delle variazioni su formule complesse che rappresentano probabilmente il più alto livello mai raggiunto da musiche di tradizione orale di tipo formulare. Cioè qua la tecnica della variazione si dispiega in maniera straordinaria. Dicevamo appunto che questa è la prima volta che viene conferita in Italia una laurea ad honorem ad un musicista del genere. Che valore ha appunto tutto questo? Sì, forse, anzi credo proprio non solo in Italia, si tratta dunque di un evento di una portata culturale e politica, secondo me molto notevole. Ha il senso di riconoscere dei modi di trasmissione del sapere e il dialogo tra questi modi appunto orali e l'accademia è un modo del tutto diverso che è quello della valutazione scritta, della considerazione storica, della musica che rinnova, credo, profondamente la concezione stessa della circolazione di sapere. Nel XXI secolo, cioè in un'epoca nella quale i suonatori di tradizione hanno accesso ai media, alla possibilità di ascoltare le loro registrazioni, di valutarle in termini che non hanno precedenti e in cui noi abbiamo la possibilità di accedere a queste fonti in termini anch'essi del tutto nuovi. L'evento accadrà il 14 febbraio, quindi prossima settimana, all'Aula Magna di Santa Lucia in via Castiglione, appunto al centro di Bologna. Tra l'altro sarà anche un giorno insomma di festa, ci sarà la proiezione di un film e poi anche un concerto con protagonisti importantissimi, ovviamente Luigi Lai, ma anche nomi importanti come ad esempio Paolo Fresu. Sì, alle 16 in Santa Lucia, nell'Aula Magna, ci sarà il conferimento solenne della laurea a Luigi Lai e in questa occasione il maestro Lai suonerà perché la sua lezione sarà una lezione concerto, essendo la sua musica appunto una musica che si dispiega molto concretamente. La sera alle 21 in Aula Absidale, in Via De Chiari, ci sarà un concerto omaggio che è stato ideato, che è stato pensato da Paolo Fresu e da me, con la proiezione di un film, dell'anteprima di un film su Maestro, un film dedicato a Luigi Lai, di Gianfranco Cabiddu. Ci sarà un collega dell'Università di Cagliari, Ignazio Macchiarella, che anche lui ha con Luigi Lai degli affettuosi rapporti di ricerca e di amicizia, e poi questo concerto nel quale Paolo Fresu e io abbiamo chiamato dei musicisti vicini a Luigi Lai che vengono per suonare un po' con lui e un po' nel segno del rapporto con la musica tradizionale sarda. Ricordiamo anche che l'accesso è su prenotazione, quindi insomma chi ha voglia di andare il 14 febbraio all'Aula Magna di Santa Lucia insomma si deve appunto prenotare prima. E Domenico, vuoi aggiungere qualcos'altro insomma sull'importanza di questo evento? No, intanto devo precisare che alle 16 non è richiesta prenotazione, l'Aula Magna è grande e confidiamo che ci sia posto per tutti quelli che vogliono venire. Alle 21 invece la prenotazione è necessaria perché il numero dei posti okay. È assai più ridotto, le prenotazioni si apriranno a partire da domani. L'importanza dell'evento, ho già detto, basta sottolinearlo, il fatto che saranno presenti in sala tra il pubblico colleghi etnomusicologi che vengono da ogni parte d'Italia, musicisti che vengono da molti luoghi. Io credo che questo sia veramente un evento estremamente significativo per la storia delle musiche orali, per la storia delle nostre discipline, appunto, non soltanto in Italia. È un evento notevolissimo anche sul piano performativo, per cui essere presenti ed ascoltarlo sarà una bellissima cosa. Luigi Lai quest'anno fa 91 anni, peraltro, per cui è un musicista che nelle sue mani, nelle sue competenze musicali, mette insieme, insomma, i due secoli del periodo di maggiore fioritura di questa tradizione musicale sarda. Grazie mille, Domenico. Grazie.